Italia in controluce, la politica nel tunnel. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Montecitorio di Radio 24. E buongiorno da Vincenzo Miglietta. Iniziamo dallo scontro nel Partito Democratico. Tutto sembrerebbe ruotare attorno alla figura di Pierluigi Bersani. Lui al centro delle accuse di Renzi di averlo escluso dai grandi elettori della Toscana per il Presidente della Repubblica. Lui come nome lanciato stamani da Berlusconi per la corsa per il Quirinale. Una sovraesposizione che lo stesso segretario del Partito Democratico però minimizza e lo ha fatto incontrando questa mattina Maroni. Con il leader del Carroccio si sarebbe parlato anche del futuro governo, ma soprattutto del metodo che dovrebbe portare alla scelta della rosa di nomi candidati al Colle. La conferma arriva dal capogruppo del PD al Senato, Zanda, ascoltiamo. Tanto l'incontro con la Lega Nord si scrive in una serie di incontri che il segretario del partito e il vice segretario e i capigruppo di Camera e Senato del Partito Democratico hanno predisposto e programmato per l'elezione del Presidente della Repubblica e soltanto per questo. Di governo non si è parlato, è stato quello di stamattina un incontro di carattere metodologico e che ha affrontato essenzialmente l'auspicio condiviso anche dalla Lega Nord che il Presidente della Repubblica venga eletto con una maggioranza molto ampia che risponde al ruolo costituzionale del Presidente, un auspicio che noi vogliamo venga tradotto poi in decisioni del Parlamento e dei delegati regionali. Nell'incontro di stamattina, come peraltro negli incontri che abbiamo già fatto precedentemente, negli incontri che faremo, abbiamo chiesto anche al Movimento 5 Stelle un incontro con l'onorevole Speranza ed io. Abbiamo chiesto di vedere i due capigruppo, credo che questo sarà possibile appena sarà terminato il loro sondaggio online sui candidati alla presidenza della Repubblica. E l'incontro e questi nell'incontro avranno non sono stati fatti nomi, non c'è stato alcun nome, quindi nessuna rosa. E abbiamo sentito appunto Luigi Zanda. Per la Lega è importante invece che non venga accantonata l'esigenza di dare un governo al Paese. Quanto al Quirinale, per il capogruppo del Carroccio al Senato Massimo Bitonci è necessaria una larga convergenza. E allora sentiamo Bitonci. Bersani ha ripetuto che l'esigenza del governo è un'esigenza che ha sentito da tutti quanti i movimenti e i partiti politici. Ovviamente nella forma si vedrà nei prossimi giorni, però per noi è importante che ci si renda conto che non ci si può più aspettare, che è un'esigenza che non può più essere prorogata. Ma c'è stata una battuta così sul suo nome, ma abbiamo insomma sorriso tutti su questa ipotesi che abbiamo letto tutti sui giornali. Però in realtà noi non abbiamo delle preclusioni, l'importante è che sia una persona di garanzia e magari che non sia rappresentante solamente di una parte politica. E queste dunque le parole di Massimo Bitonci della Lega Nord in questa puntata di Controluce dedicata, come sta avvenendo da diverse settimane, alla politica. Veniamo allora ai malumori nel Partito Democratico. Gli attacchi di Renzi hanno portato Franceschini a parlare di possibile scissione, ipotesi bocciata però dal segretario Bersani. Domani i cosiddetti saggi consegneranno intanto le loro proposte al Presidente della Repubblica, ma intanto c'è Maretta per le parole del capogruppo del Movimento 5 Stelle Roberta Lombardi. Elisabetta. Sì, Vincenzo, non ci va leggera la capogruppo del Movimento 5 Stelle Roberta Lombardi nei confronti del capo dello Stato. Napolitano, vada a fare il nonno, ha 87 anni, si goda la vecchiaia. Intanto c'è da segnalare una nuova occupazione, quella della sala del mappamondo di Montecitorio, sede della commissione speciale per i debiti delle pubbliche amministrazioni. Il Movimento 5 Stelle chiede ancora una volta l'istituzione delle commissioni, una mossa dopo che si sono visti negare l'accesso proprio alle aule vere e proprie. E sentiamo allora quanto ci ha detto appunto Roberta Lombardi. È l'unica commissione che al momento i partiti hanno deciso di far funzionare e quindi siccome noi vogliamo lavorare, vogliamo che il Parlamento lavori e si preoccupi del Paese, siamo lì presenti per dare il nostro contributo. No, noi non occupiamo, assistiamo ai lavori e nel diritto dei parlamentari assistere ai lavori, intervenire, porre domande ovviamente pertinenti ai temi che vengono affrontati. Non abbiamo diritto di voto, ma questa è la regola, noi siamo sempre nelle regole. Abbiamo sollecitato sotto vari punti e vari fronti la Presidente della Camera, sia per far partire le commissioni. Siamo riusciti oggi pomeriggio a far avviare la Giunta per il Regolamento per chiedere appunto un parere sull'applicazione del regolamento, perché ricordiamo che il regolamento della Camera e la Costituzione prevedono che in questo momento le commissioni, quindi i lavori parlamentari, potrebbero partire. E la stessa Lombardi, l'abbiamo ascoltato, ammette che non si tratta, Elisabetta, di una vera occupazione, cosa confermata anche da Pierpaolo Baretta del PD. Non è un'occupazione, tutti i deputati possono partecipare ai lavori della Commissione. Ma il Movimento 5 Stelle lancia intanto le Quirinali online per scegliere il Presidente della Repubblica, che deve corrispondere ad una personalità di altissimo profilo, uno che porti il nome degli italiani, viene spiegato nel mondo con vanto e senza farci vergognare. E quindi vediamo anche sul sito del Movimento 5 Stelle alcuni profili. Noa Prodi, che è una figura che per certi versi secondo il Movimento 5 Stelle è legata alla vecchia politica, e anche sul nome della Bonino ci sono delle perplessità. Critico poi Beppe Grillo sul dialogo tra Bersani e Berlusconi, la coppia bed e breakfast la definisce Grillo, che decide nelle segrete stanze il presidente dell'inciucio, escludendo di fatto ogni partecipazione popolare. Ecco, appunto vediamo anche i nostri radioascoltatori che dicono se occupano le latrine del Parlamento o forse ottengono di più, e poi ci spiegano, ci chiedono perché Renzi deve invece essere nominato consigliere regionale toscano, e parlano di piccolo caimano i nostri radioascoltatori, che possono comunque inviarci un sms al 349-238-6666. Ma intanto, Vincenzo, io vorrei sapere che cosa ne pensi di queste Quirinali online. Ma sicuramente mi sembra che si tratti di una grande innovazione. Onestamente era una cosa che non si era mai vista precedentemente. Per scegliere questo altissimo nome, ma il problema lo possiamo spiegare ai nostri nonni, ai nostri genitori che magari hanno difficoltà a usare un computer, e figuriamoci se poi si mettono lì a accenderlo e votare online. Va bene, però è un'iniziativa sicuramente che viene dal basso, come c'è un'altra iniziativa che bene o male sta scuotendo la corsa al Campidoglio, direi. Assolutamente è così. I candidati per il Campidoglio, secondo qualcuno, starebbero tremando. C'è il ritorno oggi di Cicciolina, Ilona Staller, la ricorderete, torna in campo e si candida a sindaco di Roma nelle liste dei liberali. Un ritorno per valorizzare, spiega Cicciolina, la storia politica dimenticata dei diritti civili in alternativa al bigottismo. Allora, gli altri candidati sono tutti in fibrillazione dopo questa scesa in campo di Cicciolina, che ricordiamo è stata anche parlamentare del Partito Radicale. Parlando seriamente, invece, c'è da segnalare finalmente che il lavoro dei saggi sta per concludersi, Vincenzo. Sì, è così, un lavoro che necessariamente però sarà interlocutorio, perché come sappiamo si aspetta l'elezione del Capo dello Stato. Il Parlamento si riunirà in seduta comune qui a Montecitorio il 18 aprile, proprio fra una settimana. Si inizierà nel pomeriggio giovedì, quindi ci sarà da calendario una sola votazione, poi il venerdì ce ne saranno due. In tutte e tre le prime votazioni è richiesta una maggioranza qualificata, per cui se i grandi elettori sono circa 1000, il candidato dovrebbe, per diventare presidente, avere almeno 700 voti. Viste gli equilibri politici al momento, non si capisce chi possa raggiungere un quorum del genere. Intanto sul fronte economico ci sono da segnalare le parole del Presidente del Consiglio Mario Monti, che ha replicato secco all'Unione Europea: non c'è nessun contagio dall'Italia. Ricordiamo che l'Unione Europea aveva sollevato l'allarme sui problemi dell'Italia, che potrebbero estendersi al resto della zona euro, e il Premier a Londra dice: sono lungamente in uscita. Intanto dall'aggiornamento sui conti pubblici emerge la necessità, indovina di che cosa, Vincenzo, di un'altra manovra economica da oltre 20 miliardi, tra il 2015 e il 2017 che salirebbero a 60 senza la conferma dell'IMU, la tanto odiata tassa che noi sappiamo l'ex premier Silvio Berlusconi vuole abolire almeno per la prima casa e anche il Partito Democratico vuole rimodulare. Ma poi è appena parlato Beppe Grillo nella sua web, la cosa, che cosa... Assolutamente, ma ci si aspettava qualcosa di forte come nel suo costume, magari proprio sulla politica più stretta. In effetti Beppe Grillo è tornato a spiegare la rendicontazione del suo tsunami tour, praticamente quanto raccolto online ha coperto ampiamente le spese di tutta la sua campagna elettorale e quindi Beppe Grillo dice: noi siamo così trasparenti, magari facessero quello che abbiamo fatto noi anche i giornali e gli altri partiti politici. Dai nostri radioascoltatori diciamo che c'è chi propone Fiorello presidente, saprebbe tenere testa a un comico, nemmeno Crozza è riuscito a convincere Bersani del nonsense dei suoi incontri, dice Piera, il PD dovrà abolire le primarie e far fuori Renzi e poi sempre meglio occupare il Parlamento prepotessa che tenerlo occupato senza fare niente. Noi comunque vi terremo aggiornati, un saluto a Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.